song. You make me reckless, reckless. Every day you make me reckless. So where's the music been? I have to find a way to get you right. Yeah, yeah. The partner she was with, he did not know how to be it. Said I, oh no. He said, Mr. Get Away From Me. Somebody came up, and stole the girl from you. This is a message that you should discover. You can't trust a girl, I'm judging by the cover. They can lead you on and keep you in a daze. Keep your head over heels and keep you amazed. It's up to you whether you fall in the trap. Just remember when you push up to have a strong rap. Cause nowadays, things are real funny. You can bet more than likely all you want is your money. So listen, take heed to what I say. With or without you, the girl is okay. Girls are the same everywhere. You can bet all they want from you is what they can get. And when they're finished, you can bet that you tried or they'll leave you penniless. With desire, desire, desire, desire, desire. We'll be right back. Pull the trigger, don't you see? You and me, skin on skin, out of time. Eccoci qua, eccoci qua. Ben trovati e ben trovate. Radio Pirata 38, 18 e 26 minuti di questo lunedì 12 luglio 2021. Siamo initi un po' lunghi, si dice a Roma, con l'orario. Sarà anche perché siamo reduci di un fine settimana interessante a Fiumicino, e quindi cogliamo anche l'occasione per salutare tutte quelle persone che hanno sia organizzato che partecipato attivamente alla serata di sabato sera. E quindi tra poco cominceremo la nostra classica trasmissione del lunedì di Radio Pirata 38. Vi lasciamo un altro po' di musica. Nel frattempo vi ricordiamo che ci potete contattare al 351-09-13-390 per richieste musicali e tutto ciò che vi viene in mente. E nel frattempo abbiamo provato l'altro microfono che va e va. E quindi allora vi lasciamo un altro po' di musica, 18 e 26 minuti, anzi 27 in questo momento, Radio Pirata 38. Siamo qui ad allietare il vostro lunedì. Allora, ritorniamo qui in voce, 18:31, con questa traccetta che vi pensavate, che vi parlavamo dalla partita d'Italia di ieri, che abbiamo vinto europei, e no, perché non ce frega un ca. Ed ecco, allora, siccome non vogliamo parlare della partita di ieri, anche se in tanti hanno suonato i clacson fino a notte fonda, come se aveste vinto un milione d'euro a testa, invece non è così, il calcio ci fa passare tutte le problematiche che troviamo nella nostra quotidianità, anche se vabbè, per pochi secondi e poi ritorna tutto come prima. E allora invece di che cosa andremo a parlare quest'oggi? Vediamo un po' se lo sapete. Allora, quest'oggi andremo a parlare del classico giro su informazioni di quartiere, rifiuti, viabilità, riverdi, scuole. Quindi invitiamo tutte e tutti a scriverci al 351-09-13-390, soprattutto quindi anche le persone di questo quartiere che magari hanno un punto di vista proprio e diretto proprio all'interno di questa zona. Dopodiché andremo a parlare di un tema, il personale politico, una specie di rubrica tra gossip e relazioni, quindi anche qualcosa di proprio nostro nello specifico. Proseguiremo con l'aggiornamento sulla gira zapatista e tenteremo di andare a parlare di carcere e repressione con degli aggiornamenti da Santa Maria Capua Vetere, e vedremo se riusciremo a fare una corrispondenza con una compagna riguardo a una sorveglianza speciale che è stata chiesta al tribunale per 7 compagni. E poi, dal momento che oggi è 12 di luglio 2021, a 20 anni dal Giotto di Genova, andremo a fare una piccola introduzione, insomma, di come si svolgeranno le giornate, o vedremo insomma varie idee e di quello che ciascuno di noi pensa rispetto a come magari è stata organizzata questa data. E allora vi lascio ancora la musica, 18:34, Radio Pirata 38, 351-09-13-390, attivi e attive, fateci sapere se si sente bene, se volete una traccia, se volete parlarci di qualcosa, anche di come è andata la vostra giornata, proveremo a fare un pochino i vostri psicologi e psicologhe. I'm talking to you.

ed eccoci qui, 18.42, Radio Pirata 38, 351-09-13390, dopo le note di Robert Armani di un'attrazione che si chiama The Power, andiamo quindi a cominciare a parlare di un pochino di cose molto interessanti, nei nostri classici spettaculeschi ormai da tre puntate portiamo avanti. C'è una bellissima notizia che secondo me ha un titolo veramente magnifico, lo vuoi leggere tu? Senza tossire, senza ridere. Ancora scontri tra Antonella Elia e Samantha De Grenè. Non sono pentita, anzi, oh, i scontri. Allora, no, io leggendo questo titolo immagino veramente c'è tipo loro per strada che semenano con orde di fan agguerriti e agguerrite alle loro spalle che si pistano, interviene la polizia in un assetto antisommossa con tanto di idrante e tanto estate, vabbè, e tutti si uniscono contro le guardie, dicono qui. E niente, non è proprio pentita la De Grenè, comunque dice proprio anzi. Vogliamo sapere cos'è successo oppure no? Allora, lo scopriamo, vediamo un attimino. L'articolo dice questo: continua dopo mesi lo scontro tra Samantha De Grenè e Antonella Elia dopo l'ultima edizione del Grande Fratello VIP. La showgirl mora 50 anni e l'opinionista bionda 57 non si sono risparmiate palesando un'antipatia reciproca. La Elia in diretta c'era andata giù pesante con dichiarazioni spiacevoli sul peso della De Grenè, costringendo il conduttore Alfonso Signorini a scusarsi. E quindi manteniamo sempre il tema estivo, questa prova costume così noiosa. Il peso specifico. No, vai, sì, abbiamo risolto. Che dicevi che? Che dicevo? Dicevi che non sanno tenere. Che cosa è che non sanno tenere? Non lo so, non mi ricordo più. Va bene, ma non fa niente. Cosa ne pensi tu di sta cazzata della prova costume? Avvicinando il microfono però un pochino di più, grazie. Ok. Bene. Ah, ok. Ora ci sei. Ora io. Sì. La prova costume. Io, se avete caldo e quel costume vi piace, provatevelo, regà. Che vedevo di. E vi starà sicuramente bene. Come vi pare. Sentitevi bene con voi stessi e con voi stessi, no? Sì. La perfezione non esiste. Ya sta, no? Come dicono dall'altra parte del mare. Giusto? Sì. Andiamosene. Non ve menate più però, mi raccomando, che serve a niente. Menatevi per cose più serie, ragazzi. Se proprio dovete, insomma, se proprio dovete. Va bene, allora continuiamo così, 18.45, un pochino di musica DJ e torniamo tra poco da voi. rieccoci qui, 18:50, Radio Pirata 38, 351-09-13-390. Andiamo a salutare un caro fratellino, Gabriele Frullino, che ci sta ascoltando, non so da dove, non so quando e non so come, però un gran saluto a te. E andiamo a continuare con la nostra rubrica del gossip e spettaculares, perché ci andiamo a riallacciare anche al tema di cui stavamo parlando prima. Abbiamo cominciato a dire due o tre cose. E niente, sempre su gossip.it troviamo Aurora Ramazzotti, ammette: a volte mi guardo allo specchio e piango. Eh sì, ma, anche. Ma chi è? La figlia o la moglie? No, lei è la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, la quale da un po' di tempo sta in televisione, partecipando, mi sembra, al programma televisivo Le Iene. Figlia d'arte. E quindi l'articolo recita così: la figlia come di Michelle Hunziker. Corretto. La figlia di Michelle Hunziker, Eros Ramazzotti, è la padalina del body positivity. Più volte nelle sue ultime interviste ha rimarcato quanto sia importante accettarsi per quel che si è, e ha parlato a lungo del suo percorso per superare chi la bersagliava con cattiverie sui social. E dice: mi davano dello scorfano, ho avuto crisi isteriche e disturbi alimentari. Beh certo, quando le aspettative sono alte, giustamente. No, ma sì, ma poi cadere qui dall'ultimo piano ci fa sicuramente più male. Sicuramente, ma poi si apre anche, no, il discorso, oltre ad accettarsi nello specifico ogni persona come dovrebbe fare, no? Perché come dicevamo prima, non esiste la perfezione. Si apre anche un tema qui, no? Ovvero di come e quanto i social al giorno d'oggi vadano a influenzare sia il tempo che noi dedichiamo a questi, sia poi a tutto ciò che andiamo ad assorbire rispetto a quello che scrivono di noi le persone sui social, no? Che è una tematica che sinceramente è tra virgolette new, che da pochi anni magari ha cominciato anche che a... Che hai detto? No, miau, che? Miau? Ho detto new, nuova. Nuova. Però mi interrompi e io mi perdo il filo, mannaggia. Sta qua, ripiamo sto filo. Sono qua apposta per... Grazie compagno. E quindi niente, vabbè, accettatevi, perché sennò qua è una caciara. Chi se ne frega di quello che dicono le persone. Non diamo troppa importanza ai social, anche se dobbiamo attraversarli. Beh, diciamo che ormai i social hanno superato la televisione, perché... Si preoccupi del fatto che la madre è una razzista che fa il segno dei cinesi facendo gli occhi a mandorla. E poi... Ma quella è svizzera. E poi la paladina del body positive. Vabbè, ognuno è il suo, che dovemmo fare, insomma, questo era giusto, insomma, commentarlo, perché non serve piangere guardandosi allo specchio. Allora, 18:53, Radio Pirata 38, 351-09-13-390, fateci le vostre richieste, diteci come è andata la vostra giornata, scriveteci qualcosa, se si sente, se non si sente, continuiamo con un po' di musica. niente, raga, qua bisogna tornare in voce, perché sta a fare un attimo i complimenti a sto DJ che ci sta a mettere delle traccette leggere, leggere stasera. Apprezziamo. Mamma mia, grazie, grazie, grazie, veramente. Allora, 18:59, sempre Radio Pirata 38. Oggi non mescono le parole. Oggi stai di risacca. Vado a fare un pochino di esercizi di spelling, come si chiamano? Di dizione. Quindi dicevo, Radio Pirata 38 351 09 13 390. Allora, chi ci scrive? Chi ci scrive dall'Olanda? Ciao Vale a te. Ci scrive che anche i ricchi piangono rispetto a quello di cui stavamo parlando prima. Sì. Anche i ricchi hanno i loro sì, c'è differenza, diciamo così, solamente il portafoglio o il conto in banca, però sempre persone siamo, e che quindi che piangano anche un pianeta viviamo, e che piangono anche un pochetto loro, no? Ci sta pure. Dato che qua a piangere siamo sempre gli stessi, tra virgolette. E allora andiamo a continuare la nostra rubrica di gossip. Di chi vogliamo parlare? Di Enzo Paolo Turchi oppure di Gabriel Garco? Ditemi voi, scegliete voi. Mamma Mao. Mamma Mao? No, non c'è Mamma Mao. L'articolo di Mamma Mao. Mamma Mao non c'è. Non c'è sta. Ma Gabriel Garco ci suggeriscono c'è. Gabriel Garco. Allora, niente, Gabriel Garco ha festeggiato. È già in viaggio nonostante il Covid. Corretto, ha festeggiato 49 anni con un viaggio, ecco dove. Ma io mi domando, senza leggere l'articolo, se sentirà in esilio, poverino, che ha dovuto migrare, come le persone che muoiono in mare a causa di irreali motivazioni. Ma quella cosa mi si nota di più, se ci vado o non ci vado. Cioè, questa è andata a leggo alle Azzorre. Alle Azzorre? Ah, ma capito. Perché voleva andare con gli zapatisti? Gli zapatisti, per quello. È arrivato tardi. Ti è arrivata la notizia tardi, frate. Te devi informare. Chiami il manager e dici: senti, bello, mi ha fatto fare figuraccia sui giornali. Cioè, insomma, no, ma un po' devi dire prima che magari cioè, anticipavo. Ma fa un tempo di merda. Capito? Cioè, i venti, le cose stanno in oceano. Ma che ci va a fare? Cioè, perché? Poi, cioè, a 49 anni, perché anni. Dico se fino a 49 anni ancora non ci ha capito un cazzo questo. Va bene, e allora nemmeno andiamo a commentare la notizia, perché che dobbiamo dire? Si commenta da sola. Si commenta da sola, e mi dispiace per te, caro mio, che te devo fare. 19:01 minuti. Vogliamo andare avanti a commentare un altro gossip. Andiamo da quali Enzo sono Paolo. Gli effetti della morte della Carrà? Ecco, come ecco. Si è trasformato il mondo dello allora, spettacolo. Allora, titola così: Enzo Paolo Turchi distrutto dal dolore al funerale di Raffaella Carrà. Enzo Paolo Turchi non riesce a trattenere un pianto disperato durante il funerale di Raffaella Carrà. Il ballerino era legatissimo alla conduttrice che è scomparsa a 78 anni lo scorso lunedì dopo una terribile malattia tenuta segreta fino all'ultimo. Con lei era stato protagonista di uno dei balli più famosi della TV italiana, il Tuca Tuca. Che vogliamo dire del Tuca Tuca, compagno accompagnatore, che stai attento alle birrette invece allora, che parlare no, con me? Peccato che gli ascoltatori e le ascoltatrici non possano vedere la foto, perché sembra ci sarebbe benissimo un meme con sopra scritto: e mo che cazzo me lo paga la villa al mare, cioè capito, e mo i soldi chi me li dà, disperato gli si legge in faccia. Anche perché loro loro due, cioè Enzo Paolo e la come si chiama? Raffaella Carrà. No, la moglie di Enzo Paolo, la Carmen. No, Carmen Russo. Sì, hanno una bimba piccola, quindi insomma, come fa mo? Ecco, mo quella tocca campalla, quella tocca costa. Campalla, ragazzina, mo che se lavora più, che te mandano solo a fa. E tipo che ne so. So problemi, signora mia. Sì, capito? Ti mandano sull'isola di famosi e queste cose qua. Certo, tu spicci è muto da pagare. Ci stanno i problemi. E quindi con i problemi e i pianti di Enzo Paolo Turchi vi salutiamo per adesso, 19:03, Radio Pirata 38. Ci potete contattare sempre al 351 09 13 390. Ci trovate anche su Facebook e su Twitter. Facebook è Cronaca Imborgata, l'account su cui ci potete scrivere. Invece su Twitter Radio Pirata 38. Dagli regà. Dagli. rieccoci qui, 19:10 minuti, lunedì 12 luglio 2021, Radio Pirata 38. Ci potete contattare al 351-0913-390. E quindi dopo di questa traccetta sempre bella, ci hanno fatto delle richieste, movimentata e divertente, vi annunciamo che andremo ad accontentare Valentina, che ci ha fatto una bella richiesta, una traccia che si chiama Drop It. E nel frattempo però andiamo a concludere questa parte relativa gossip e speculash. Cosa ci offre il web? Leggilo tu il testo. Oh, Jennifer Lopez già pronta alla convivenza con Ben Affleck. Eh sì. Allora, dobbiamo capire, ricordarci, chi è Jennifer Lopez? Beh, io quella un pochino me la ricordo di più, perché ogni tanto la mia figlia si sente le canzoni sue su YouTube e non so bene lui chi sia, poi lo possiamo andare a vedere. Se non erro, c'entra qualcosa con l'ambiente musicale? Maestro, no? Ci può suggerire cosa è? Aspetta, ce lo dice il maestro. Ha fatto molti film, vabbè, uno dei soliti manzi di Hollywood, insomma, però ha fatto pure qualche film interessante, nonostante sia de plastica, cioè de attore, ma veramente non c'ha un cazzo. Manzo vecchio fa buon brodo, com'era? No. Sì, è uno di sti manichini mascelloni americani, insomma, che sta lì, che lo mette un po' dappertutto. Pensa che ha fatto pure in Batman, cioè proprio ha fatto di tutto, da Clarence. Tutti, vabbè, se ne è fatti tutti. Sì. Tipo di quelle cose che io ho problemi con i nomi, e quindi se lo vedo magari lo sì, riconosco, ma non so che si chiama così. Associare la faccia al nome, no? Corretto. Come alle feste quando conosci le persone. E allora andiamo a leggere. Sono passati pochi mesi da quando hanno ripreso a frequentarsi, dopo essere stati una coppia per un paio d'anni tra il 2002 e il 2004, ma sembrava proprio che la passione tra Jennifer Lopez e Ben Affleck sia davvero alle stelle. E niente, andranno a vivere insieme, sarà l'inizio della fine. Ma tipo c'hanno 50 anni, quanti anni hanno? Ma più o meno, ma forse lui anche di più. La cantante dice 51enne, no, e l'attore 48enne. Anzi, vabbè, 48, 51, lì stiamo. Vabbè, lì stiamo, insomma, con l'età va bene. Però niente, no, la domanda forever young proprio. Corretto, ma la domanda era un'altra. Sarà e la risposta era sbagliata. No, sarà l'inizio della fine? O la fine dell'inizio? Dipende, cioè, uno quando la vive insieme, no? Appunto. Tante contraddizioni cominciano a emergere, no? E poi, boh. Ma secondo me queste sono tutte cose, no? Come i ragazzini che si mettono insieme, guarda mamma c'è un ragazzetto, capito? Per rivivere terze e quarte giovinezze che non esistono. Un po' come quell'altro che è scappato alle Azzorre per capire, no? Ma mi si nota di più se sì, vado in un posto in o se vado in un posto del cazzo dove non ci va nessuno. Gli affacci secondo me hanno pagato per le Azzorre. Ci sa qualcuno sicuramente che gli ha suggerito. Fai un po' di pubblicità a livello di turismo verso le Azzorre. Chissà quanti soldi ha preso Gabriele. Le Azzorre portoghesi non credo che siano neanche attrezzate. Allora apriamo un sondaggio qui sul nostro WhatsApp al 351-0913-390. Quanti soldi avrà preso Gabriele Garco per andare in vacanza Azzorre. Alle Azzorre? E mentre qui è arrivato un caro amico, che conosciamo da tanto tempo, che gli piace tanto suonare e che ci ha fatto zompettare per anni, e nel frattempo lo ha preceduto un altro caro amico che innanzitutto ringraziamo per aver bussato coi piedi, avendo portato un pochino di cosine carine per l'aperitivo, e secondo poi non ringraziamo perché nella mattina di domenica, quando una persona tentava di dormire, lui andava lì e diceva: "Au, ma smettite, fa finta di dormire", e quindi dormì è stato pressoché impossibile. Poi c'era un pochetto di sole a quell'ora, e quindi metteci quello più quell'altro con l'altri che stavano ancora a suonare e spingevano con certi traccioni che ti dico fermate, no, non mi hai fatto dormire. Quindi ti ringrazio a metà, 50 e 50. Allora 19:14, abbiamo aperto il sondaggio di quanti soldi aveva preso Gabber Garco per andare in vacanza alle Azzorre. 351-0913-390, Radio Pirata 38, Daia DJ. decency and virtue are gone, honey. Beshrew me. We know the air is unfit to breathe and our food is unfit to eat. It's like everything everywhere is going crazy, so we don't go out anymore. Allora, sempre Radio Pirata 38, 19, 23 minuti, lunedì 12 luglio 2021. E allora avevamo annunciato che stavamo andando a mandare una traccia che ci hanno richiesto. La traccia si chiama Drop It e va, famo sentire. I wish you could see this. Lights coming up. I've never seen a painting that captures the beauty of the ocean in a moment like this. I'm gonna make you rich, Bud Fox. Yeah, rich enough you can afford a girl like Darian. This is your wake-up call, pal. Go to work. Drop it. Drop it. Drop it. Eccoci qua, Radio Pirata 38, 19 minuti, 351-0913-390. Allora andiamo a ringraziare innanzitutto il nostro maestro che sta oggi ci fa divertire veramente tanto, e anche a Valentina che ci ha fatto sta richiesta di questa traccetta, si chiama Drop It. Andiamo quindi a entrare nella... piano piano ci addentriamo verso la metà della trasmissione di oggi. Andiamo a fare un piccolo aggiornamento rispetto alle tematiche del quartiere. Ci eravamo lasciati dicendo che appunto un pochino di voci rispetto alla situazione qui dell'immondizia nei cassonetti era andata progressivamente a migliorare dopo una parte di un po' di settimane in cui invece c'era veramente un gran caos, ma logicamente poi su Facebook, sul gruppo del quartiere, hanno continuato le persone comunque a scrivere, tra le quali una informando, mostrando diciamo differenti foto di differenti quartieri di Roma, informando logicamente tutti e tutte riguardo al fatto che non è che la situazione che viviamo qui la viviamo solo ed esclusivamente qui, ma si vive bene o male in tutti i quartieri della città. Quindi andiamo a fare una piccola riflessione che stavamo commentando prima, magari maestro, che dici? Sì, infatti era proprio così. Nel senso, l'altra settimana ci siamo informati leggendo appunto tutti i vari commenti su come la pensavano le varie persone del quartiere, e vogliamo credere che grazie alla nostra discussione qui in radio si siano sentiti in imbarazzo e quindi siano venuti subito a pulire i cassonetti e i loro dintorni, ma pensiamo che tutta questa strategia di trasformare Roma in una discarica sia proprio quello che era esattamente quello che volevano fare, visto che poi ci sono le elezioni, ci sono da dare le colpe alla sindaca uscente, o ci sono insomma da prepararsi il terreno per chi arriverà dopo. E l'immondizia, ovviamente i rifiuti, cioè la gestione dei rifiuti è una cosa che non spetta soltanto al sindaco o alla sindaca, ma è una cosa molto più complessa, è chiaro. Però noi cercavamo appunto di capire in che modo, siccome è uno dei temi che appunto infiamma spesso i social, siamo voluti intervenire per capire poi come raggiungere le persone e ragionarci assieme sui problemi senza andare a ragionare sui problemi e cercare di risolverceli da noi, visto che le amministrazioni fondamentalmente non ci arrivano, non riescono con tutti i mezzi che hanno, non riescono comunque a fare niente di importante riguardo alle varie problematiche. Quindi anche soltanto stimolare dei ragionamenti, visto che io ma come anche i compagni e le compagne qui con me pensano che ce le possiamo tranquillamente vedere da noi, e che un intero quartiere sappia come restare pulito e decoroso, non come insomma ci vogliono far credere loro, ma attraverso appunto prendersi cura della propria strada, del cortile, del palazzo. Insomma, non è che ci vuole una scienza, non ci vuole manco d'aver studiato, ci vuole solo un po' di buona volontà e di buon senso, un paio di scope, qualche sacco della monnezza, una cosa alla portata di tutti e di tutte. Che noi siamo appunto per voler decentralizzare la gestione dei rifiuti, che ogni quartiere se la vedesse per conto proprio e che chiedesse aiuto al governo centrale soltanto nel momento in cui su delle cose non ci si arriva, perché sono materiali pericolosi, sono materiali costosi da smaltire eccetera, ma per tutto il resto ce la potremmo vedere anche in casa, senza comunque continuare a pagare delle tasse per un servizio che non viene erogato. E comunque poi fra l'altro vanno cercate delle discariche enormi per tutti i rifiuti, invece di riuscire a attivare delle reali forme di riciclo e di riutilizzo della roba che smaltiamo. Qui si punta sempre a trovare il business più grande che poi sotterrà i rifiuti fondamentalmente. Non è che hanno mai proposto qualcosa di meglio che bruciarli tutti insieme oppure sotterrarli e scordarseli. Quindi io penso che poi fra di noi se la sapremo capa meglio, perché tutti quanti e tutte quante l'hanno avuto a che fare con pulire una stanza, una casa o uno spazio un po' più grande. Quindi cioè, non è che pure su questo lasciare la gestione al municipio abbiamo gli effetti sotto l'occhio di tutte e tutte, quindi pensiamoci che forse è una cosa che dovremmo riprendere noi. Sì, c'è anche da dire che è anche un pochino una speranza, no? Che le persone, che ogni persona nel proprio piccolo, no? si comporti in una determinata maniera per evitare poi magari, no, l'accumulo e il surplus di anche di sporcizia derivata anche da quello che tu quotidianamente scegli di acquistare, perché anche quella è una scelta politica alla fine, no? Di quello che acquisti quotidianamente. Se vai al mercato ad acquistare la frutta e verdura e te la metti in una busta di carta, piuttosto che andare al supermercato a comprare frutta e verdura in imballaggi di polistirolo e plastica, sicuramente c'è uno spreco e un consumo di alcuni materiali inquinanti sicuramente molto maggiore. Quindi già, diciamo così, dal proprio piccolo ciascuno e ciascuna può praticare delle scelte che sicuramente vadano ad essere indirizzate verso un determinato tipo di azione, e mi viene anche da pensare però come Roma, come dicevi tu, possa andare a decentrare magari per ogni singolo municipio la raccolta di questi rifiuti, perché se io penso a dei paesi, dei comuni magari più piccoli, tipo quello di Fiumicino, tipo quello di Algario in Sardegna o altri in cui c'è una, ai Castelli, in cui c'è una sperimentazione che è differente, ovvero il ritiro porta a porta, che sì, a volte ti fa magari tenere il sacchetto dell'umido un giorno in più e magari ti provoca la puzza, però magari in quella maniera ti riesci anche ad educare meglio e fare in modo tale che vai a limitare il più possibile quello che in caso ti va a rimanere a casa per due giorni, e quindi vai a vedere che la situazione per le strade è totalmente differente rispetto a quella che invece trovano i comuni più grandi, come appunto quelli delle grandi città, soprattutto se poi ogni municipio va ad adottare misure differenti come quelle di cui parlavamo durante la trasmissione precedente, ovvero qua al Laurentino si lasciano i cassonetti per strada, nei quartieri limitrofi invece c'è una raccolta magari differente che provoca il fatto che le persone da altri quartieri vadano a sversare i propri rifiuti nei quartieri in cui attualmente i cassonetti sono presenti, in quel caso logicamente si va a continuare a creare la problematica, e quindi forse ci sarebbe anche la necessità di un coordinamento tra i vari municipi che possano quindi far sì che queste tematiche possono essere trattate in una maniera un attimino più intelligente e quindi rendere la vita di tutte e tutti noi un attimino più serena anche da quel punto di vista, perché comunque immagino che non piaccia a nessuno trovare mentre passi vicino a dei cassonetti quella puzza di immondizia che macera sotto al sole per ore e ore e che manda veramente degli odori nauseabondi. Ci scusiamo se il tema è un pochino vomitevole, però purtroppo è quello che ci troviamo un po' a tutti e tutte in tutta la città di Roma e non solo a vivere. E quindi se avete, voi del quartiere, ascoltato qualche parola al riguardo e volete dirci la vostra, sapete dove raggiungerci, qui 351-09-13-390, e quindi andiamo un'altra volta in musica dopo questa parte in voce.

rendiamoci conto di quello che stiamo ascoltando. Invito gli amici e le amiche all'ascolto a rendersi conto di che cosa sta succedendo in Italia in questi giorni, in questo clima di anomalia, e non può assolutamente essere normale che le carceri italiane diventino dei luoghi di tortura sistematica, perché stiamo parlando di persone prima deumanizzate, rasate e denudate, e poi massacrate. Ecco, ma continuate a massacrare anche nei giorni a seguire voi. Certo, ma appunto mi fermerei ancora un attimo sui pestaggi, nel senso, è possibile capire come si siano svolti, nel senso in che aree del carcere si siano svolti, gli agenti coinvolti, se erano del GOM o se erano in stanza al carcere, se sono venuti in gruppo o individualmente? Hai qualche dato a riguardo, perché sono importanti da diffondere? Allora, praticamente per spiegare tutto si dovrebbe iniziare dall'inizio, perché comunque la storia è abbastanza critica e lunga. Allora, praticamente le guardie vengono da fuori, la direttrice ha chiamato i rinforzi perché non è in grado di gestire la situazione critica del carcere. Certo, quindi sono arrivati i rinforzi, agenti esterni al carcere. E poi sono andati nel reparto Nilo e hanno massacrato l'intero reparto. La maggior parte però sono il secondo e il terzo piano, che veramente sono fatti veramente molto male, come dicono. Però invece noi sappiamo che sono tutti piani, perché poi parlando con la direttrice lei ci ha confermato i pestaggi. Ah, la direttrice ha confermato i pestaggi, quindi? Sì, perché quando noi siamo andati a fare la protesta pacifica fuori al carcere, io e altre due persone abbiamo avuto un incontro con la vice direttrice del carcere di Santa Maria Capua Vetere, e lei ha detto che veramente sono stati pestati. Quindi voi comunque avete una conferma anche della direttrice che all'interno... Sì, davanti a un pubblico ufficiale, davanti a un carabinieri, il comandante dei carabinieri di Caserta, non è che l'ha detto soltanto a noi. Ecco, appunto, come ci siamo detti fuori onda, speriamo di riuscire anche a sentire la testimonianza diretta di un uomo appena uscito da quel carcere. La conferma almeno ci arriverà nell'arco della mattinata, ma se non sarà oggi sarà in un'altra occasione. Ma appunto, intanto è fondamentale, appunto, al di là delle denunce legali, al di là del fatto che avete delle registrazioni, che addirittura forse per una disattenzione, non possiamo saperlo, ma la direttrice del carcere ha ammesso che ci siano state delle violenze inaudite all'interno di quella struttura, cercare anche di fare circolare il più possibile queste informazioni e davvero rompere il silenzio che vuole rendere normale il fatto che in Italia si torturino impunemente i prigionieri, ci sembra importante, anche perché personalmente, Rita, te lo confesso, ho poca fiducia, ho molta poca fiducia nell'esito che queste vicende possono avere in tribunale, visto che... No, perché le denunce che abbiamo sporto tutti insieme dagli avvocati, addirittura anche Garanti Campani, il garante campano Samuele Ciambrillo ha sporto denuncia, tutti i nostri avvocati, noi personalmente, e le denunce stanno andando avanti perché li dobbiamo portare assolutamente in tribunale, perché non esiste proprio. No, no, appunto, penso che sia assolutamente importante provarci, purtroppo... E allora, sempre Radio Pirata 38, 19:52, abbiamo scelto di farvi ascoltare questo stralcio di un'intervista raccolta su Radio Blackout per voce della moglie di uno dei detenuti che si trovavano lì al momento del pestaggio. Andiamo magari a dire anche due parole. Questa è un'intervista che si è svolta l'anno scorso, quando ci sono state le prime rivolte nelle carceri a seguito del Covid, e già lì come si evince dall'intervista c'erano questi pestaggi. Quindi La questione un po' è questa, rispetto anche alla situazione di Santa Maria Capua Vetere: quella non è una mela marcia isolata, quello è il sistema carcerario italiano è così, che è marcio, ma soprattutto che sta degenerando, cioè va di pari passo un po' con l'imbarbarimento e la guerra tra poveri che c'è nella società, per cui il carcere, così come i CIE, così come i luoghi di reclusione degli ultimi, sono i posti dove la barbarie capitalista in qualche modo viene più a galla, cioè si vede molto di più, con la scusa, perché e questo è anche l'effetto del clima legalista, securitario, spinto anche dai 5 Stelle, non solo dalla destra berlusconiana, ma anche ma anche dei 5 Stelle, il fatto che appunto sulla retorica della legalità poi chi viene punito deve essere banalmente punito con severità, al di là del quale sia il suo crimine, quali siano le motivazioni sociali per cui finisce per esempio in carcere. Infatti è inutile che diciamo, no? Nelle carceri la stragrande maggioranza delle persone si trova per reati minori, reati dovuti, non reati dove hanno rubato tanti soldi, ma legati alla sopravvivenza sostanzialmente. Quindi classi sociali sicuramente non abbienti rispetto a quelle. Sì, molti sono spacciatori perché giustamente non trovando lavoro all'interno del sistema capitalista si devono reinventare all'interno del mondo capitalista della criminalità organizzata e quindi fanno gli spacciatori. La stragrande maggioranza delle carceri è piena di spacciatori o anche persone che per pochi grammi magari, esattamente, che avevano, diciamo, in tasca, sotto la giustamente sotto la definizione di spacciatori ci mettiamo tutti, anche coloro che purtroppo sono dovuti finire in carcere per pochissime quantità che magari erano ad uso personale. Quindi questo è il vasto mondo. Però se da un lato fuori c'è la retorica della legalità per cui si vogliono arrestare gli imprenditori che rubano milioni di euro, coloro che fanno i danni ambientali, ammazzano le persone come come i responsabili dell'azienda lì al nord Italia dove è caduta la FedEx, la seggiovia perché non facevano la manutenzione, cioè la gente fomentata dai 5 Stelle, dalla destra, in un clima da forcone medievale, giustamente vuole il capro espiatorio, vuole la gogna, vuole l'impiccagione, vuole questa roba. Questa roba non la ottiene perché i veri responsabili di queste stragi di Stato ovviamente non vanno in carcere, però ha l'effetto di imbarbarire il corpo, le guardie carcerarie e tutto il sistema penitenziario che deve tenere a bada anche sotto pressione mediatica della, diciamo così, della cosiddetta opinione pubblica fomentata dai giornali, e quindi si sente libera di poter agire in quei modi, tutelata da un bene superiore, dal loro, cioè così giustificato. E questa intervista che è andata in onda un anno fa già si faceva vedere che questa è la situazione delle carceri. Non serviva l'inchiesta della magistratura su Santa Maria Capovetere, anzi forse dovremmo accendere un po' di più i riflettori, perché si corre il rischio che poi questa inchiesta sia la panacea con cui si cancellano tutte le altre nefandezze che vengono commesse ogni giorno in tutte gli altri in tutte le altre carceri italiane. Eh sì, perché già mi immagino poi, no? Quello che più o meno è successo a Genova, il tema di cui andremo a trattare in seguito a questo, esatto, questa parte di blocco parlato. Ci ricollegheremo dopo. Già immagino questo clima di pacificazione nazionale. Corretto, questo è il problema. Già immagino che, no, le persone della polizia penitenziaria o gli alti, insomma, ranghi verranno sicuramente, beh, certo che le forze dell'ordine, tutelate in qualche modo, le forze del disordine italiane. Questa è una delle argomentazioni principali che hanno sempre avuto anche storicamente, cioè di ergersi a difensori degli interessi collettivi, siano essi questi dello Stato sabaudo o dell'imprenditoria italiana, però comunque sono loro che stanno sul campo a difendere gli interessi di qualcun altro e quindi vogliono avere mano libera. E oggi quindi vediamo, lunedì 12 luglio 19:56, vedremo cosa succederà tra 20 anni o 20 anni fa tra 20 anni rispetto a quello che è la similitudine con Genova, no? Che comunque, esatto, direi la settimana cioè questo fine settimana si terrà le persone che avevano la responsabilità di gestire la piazza e quant'altro sono state promosse. Chissà se tra 20 anni verranno promosse anche loro. È arrivato il momento un attimo di dire due parole su questo ventennale. Eh sì, allora facciamo così, andiamo un attimino a vedere qui il nostro maestro che si va a preparare per... stiamo andando a mandare una traccia, una richiesta, maestro? Mandiamo il pezzo, aspetta, dimmelo tu. E mandavamo, no, una corrispondenza, anzi no, vabbè, un podcast che ha fatto Zero Carcare sempre su Genova. Questo facciamo una cosa, mandiamo un pochino di musica perché abbiamo fatto sia la corrispondenza che pezzo che blocco facciamo parlato. Facciamo uno stacco musicale, così facciamo rilassare le orecchie. Partiamo dai commenti di Michele e poi da lì andiamo a trattare un attimino l'argomento di Genova, ci prepariamo appunto al ventennale che avverrà appunto dal 19 di luglio del 2021. Allora dai maestro, gli diamo un po' di musichetta e dai regà. We'll be right back. Allora, Radio Pirata 38 2004 351 09 13 390 per scriverci in diretta. Allora andiamo a commentare, anzi andiamo a leggere un'ansa di una notizia di quest'oggi, quindi fresca. L'ansa titola così: a Bologna corteo anarchici contro le misure chieste dal PM, presidio e poi corteo di una cinquantina di anarchici questa mattina davanti al tribunale di Bologna per protestare contro le misure di sorveglianza speciale chieste dal PM Stefano D'Ambrosio nei confronti di 7 attivisti che il 13 maggio del 2020 vennero arrestati con l'accusa di associazione con finalità di terrorismo nell'ambito della operazione ritrovo dei carabinieri del ROS. Nei mesi scorsi, prima il Tribunale dell'Esame e poi la Cassazione avevano disposto e confermato la liberazione dei 7 anarchici, ridimensionando per tutti il quadro accusatorio e tenendo in piedi reati come imbrattamento, danneggiamento e istigazione a delinquere. Il collegio dei giudici bolognesi si è preso tra i 60 e gli 80 giorni di tempo per decidere sulla richiesta dei PM e terminata l'udienza il gruppo di anarchici e anarchiche con striscioni e fumogene di colore nero ha inscenato un corteo per le vie del centro di Bologna fino ad arrivare davanti alla sede del provveditorato per l'amministrazione penitenziaria dell'Emilia Romagna e delle Marche. Gli attivisti infatti hanno unito alla protesta odierna quella contro l'archiviazione dell'indagine sulla morte di 8 detenuti durante la rivolta del marzo 2020 nel carcere di Modena e la recente inchiesta sui pestaggi dei detenuti nel carcere di Santa Maria Capuavetere da parte di agenti della polizia penitenziaria. Ecco che, come dicevamo prima, non è solamente il carcere di Santa Maria Capuavetere a essere interessato delle classiche torture che sempre state perpetrate nei confronti dei carcerati e delle carcerate. Poi diamo un indizio di informazione per chi ci ascolta: le inchieste che vedono coinvolti i compagni e le compagne anarchiche nella penisola italica sono sempre state precursori della creazione di nuovi dispositivi di controllo, di nuove leggi antirepressive che prima si sono sperimentate sul cosiddetto movimento anarchico, che magari ovviamente non ha fatto niente che se non protestare, ma dato che viene percepito dalle forze dell'ordine come un movimento isolato dalla società, su di loro, come nelle curve degli stadi, si possono sperimentare i nuovi metodi di repressione che poi ovviamente dovranno, se funzionano, dovranno essere applicati all'intera società. Quindi fanno bene i compagni a protestare contro queste misure, così come quelle che sono state date a Eddie in Valsusa, piuttosto che quelle che vengono date a tutti i compagni e le compagne che protestano, dai lavoratori e lavoratrici della logistica fino a chi lavora nei campi. Quindi insomma andiamo avanti con queste informazioni e teniamo alta la guardia, anche nel vero senso della parola, teniamo alta la guardia, alta non sarebbe la guardia, male per il collo, la teniamo per il collo, collo. Siamo, e quindi niente, abbiamo gli occhi ben aperti dopo una battuta piacevole da un certo punto di vista. Ritorniamo in musica, dai maestro, 20.08 Radio dopo, Pirata 38, e dopo affronteremo l'annosa questione di Genova. Corretto, anche perché avevamo annunciato che forse avremmo potuto mandare questa corrispondenza, non siamo riusciti, e quindi per questo abbiamo letto questa notizia, questa ansia, e volevamo comunque informarvi anche riguardo a questo tema. Però oggi è successa una cosa che i media mainstream non hanno diffuso a gran voce. In realtà forse nelle ultime ore sui media, dei social, su internet, la notizia è passata. Ok, quindi che vogliamo fare? Vogliamo dare questa notizia anche noi prima di parlare di Genova e poi girare Zapatista? Va bene, facciamo un excursus internazionale al volo, dove abbiamo anche un aneddoto divertente da poter raccontare. Ok, facciamo un camouflage. E poi passiamo a Genova e va benissimo, ai nostri italici dolori. Benissimo, allora dai maestro, speriamo che siamo sempre pronti e pronte, ma noi lo saremo sempre e lo siamo sempre stati. 2008 351 09 13390 Radio Pirata 38, contattateci, iscriveteci, siamo qui per voi. Thank you. We'll be right back. E rieccoci qui, 20 e 14, Radio Pirata 38351091330. Vi abbiamo lasciato parlando di una notizia odierna e allora continuiamo a parlare di una notizia fresca fresca di poche ore fa. A Cuba sì, è successo qualcosa. Chi avrà avuto modo di accedere ai social nelle ultime ore avrà visto apparire una notizia che parla dei disordini a Cuba e di come il popolo cubano sia sceso in strada per protestare contro il governo a causa della situazione economica e a una carenza di medicinali. Ora, è molto complesso, però in realtà cosa sta succedendo a Cuba? Da qualche anno, da quando in realtà da un po' di anni, cioè da quando si è insediata l'amministrazione Obama, l'atteggiamento degli Stati Uniti per combattere la rivoluzione cubana è cambiato, e cioè non si attacca più da destra cercando di fare i colpi militari o cercando di fomentare i gruppi all'estero oppure facendo un attacco diretto, cioè dal punto di vista della borghesia neoliberale statunitense o mondiale alla rivoluzione cubana, ma si cerca di fare di destabilizzare la situazione nel paese cubano dall'interno, da sinistra, no dall'interno, da sinistra, perché i dissidenti cubani hanno un minimo di agibilità a Cuba, perché non tutti i dissidenti sono stati cacciati da Cuba, e soprattutto se tu sei dissidente ma non fai niente non è che il governo cubano te ne prenda a casa perché tu pensi così, e quindi gli esuli di Miami hanno un sacco di contatti a Cuba di gente che è rimasta ad abitare lì e che non viene appunto perseguitata dal governo cubano, e sono loro la base morbida dei golpe morbidi che vengono proposti negli ultimi anni, cioè questa dottrina che Obama ha inserito di destabilizzare i regimi socialisti da sinistra, cioè facendo delle critiche da sinistra. Appunto, il popolo scende in piazza, se ognuno apre tutti i giornali dal Fatto Quotidiano, Repubblica, Corriere, ti dicono scendono in piazza per la crisi economica, cosa reale, su cui ci torneremo, ma dicono pure poi chiedono un cambio di passo all'interno del governo. Cioè, ovviamente, questa seconda parte aggiunta dai giornali e dai giornalisti nostrani che non vedono l'ora di dargli addosso al regime cubano, ovviamente non è vera. Tant'è che, facciamo un passo indietro, cosa è successo? Sono scoppiati dei disordini in un quartiere dell'Havana, che poi si sono un po' diffusi nella capitale, a Santiago de Cuba. A Sant'Antonio de los Baños, per essere precisi. Queste proteste, fatte da una minoranza coordinata con le proteste che poi si sono sviluppate a Miami, e c'è stato un tentativo pure qua a Roma all'ambasciata che è stata fortunatamente contrastata dai compagni, che erano molti di più e che sostanzialmente l'hanno annullata, quindi coordinata per appunto un processo di destabilizzazione da sinistra. Questa cosa è stata vinta sostanzialmente con l'appello del presidente cubano Díaz-Canel, che ha sostanzialmente chiamato il popolo cubano a scendere in strada a proteggere sostanzialmente la rivoluzione cubana da questo tentativo di golpe morbido. Quindi questo è quello che è successo. E infatti Joe Biden, attuale presidente degli Stati Uniti, ha lanciato un appello da parte sua verso il regime cubano, lo stesso Joe Biden, perché ascolti il suo popolo e la sua chiara richiesta di libertà e di aiuto per la crisi legata alla pandemia. Quindi questo ci fa denotare quanto in realtà gli Stati Uniti realmente comunque abbiano lo stesso condotto. Joe Biden, che tre giorni fa ha confermato all'ONU l'embargo contro Cuba, che quindi in questa situazione di pandemia è l'embargo che gli Stati Uniti impongono da più di 50 anni all'isola cubana, che crea la crisi legata alla pandemia, perché il problema è, se non ci fosse quell'embargo, Cuba non avrebbe problemi economici perché sarebbe libera di commerciare con i paesi del mondo. Invece, a causa di questo embargo, sostanzialmente Cuba è costretta a commerciare con pochissimi stati che ovviamente non riescono a soddisfare appieno la richiesta di materie prime, macchinari, conoscenze, know-how che una società complessa e moderna come quella cubana ha bisogno. Tra l'altro l'Italia non sta messa diversamente, perché se noi, cioè, perché adesso noi siamo nell'alveo neoliberale dell'Europa e quindi parte che ci trattano a pesci in faccia, anche se siamo i vassalli, cioè siamo i camerieri del tavolo europeo, ma comunque abbiamo la libertà di poter accedere alle materie prime, alle risorse, e quindi abbiamo la parvenza di vivere in uno stato di ricchezza. Ma appena facessimo delle politiche diverse da quelle neoliberali, anche noi ci troveremmo di fronte alla reazione del capitale, che la prima cosa che fa è un attacco economico alla tua economia, e questo è il risultato. Quindi è chiaro che sicuramente Cuba vive delle situazioni difficili, dove ci sono dei disagi, dove ci sono dei blackout, dove non ci sta dove ci stanno delle carenze, ma questo è dovuto innanzitutto al blocco e non sicuramente al governo cubano, che sperpera le risorse piuttosto che ne so. Poi io non si capisce perché tempo fa ci fu una specie di anche apertura minima. Questa apertura è legata, questa apertura è legata, scusa, almeno diamo, perché tu hai già capito quello di cui stavo parlando, ma magari chi ci ascolta no. Quindi dicevo, poco tempo fa gli Stati Uniti hanno fatto questa, diciamo, la chiamiamolo così, apertura sobria nei confronti di Cuba, però invece poi nel momento in cui si deve decidere riguardo l'embargo confermi questo dopo 50 anni, come dicevi tu. Beh, come il fattore è questo, noi sappiamo questa cosa perché sostanzialmente la CIA redisse un piano per cambiare le azioni di controrivoluzione a Cuba, proponendo questo cambio, diciamo così, di attaccare non più da destra ma da sinistra. Questa cosa noi la sappiamo perché per redigere questo piano la CIA chiamò una serie di esuli cubani a Miami per chiedergli quali fossero le strategie migliori da mettere in campo sulla base del malcontento popolare che loro magari sapevano dall'isola. E tra questi consulenti della CIA chiamati a redigere questo piano c'era anche un cubano che in realtà era una spia del governo cubano, e quindi noi sappiamo questa cosa perché il governo cubano l'ha saputa in diretta. Quell'apertura era parte del piano, cioè se dall'alto Obama e i presidenti statunitensi dicono no, noi vogliamo essere aperti contro Cuba, dall'altro loro fomentano rivolte dal basso, apparentemente da sinistra, che chiedono maggiori libertà civili, maggiore Stop libertà di espressione. Esatto, i soliti slogan delle rivoluzioni arancioni e delle primavere arabe che abbiamo sentito negli ultimi 10 anni dal Nord Africa all'est europeo. E poi abbiamo visto come sono finite. Esatto, e sappiamo benissimo come sono finite. Quindi, e invece a Cuba non ha funzionato, così come non ha funzionato 2 anni, 3 anni fa quando cercarono di destabilizzare Maduro con la stessa tattica in Venezuela, e Maduro anche lì chiamò alla mobilitazione di piazza e il popolo rispose e fortunatamente grazie a questa risposta popolare ieri a Venezuela e oggi a Cuba, fortunatamente le rivoluzioni continuano ad esistere e non vengono represse nel continente latinoamericano. E allora, anche se non avevamo preannunciato che avremmo trattato questo tema alle 20:22, ritorniamo con un blocco di musica. Radio Pirata 38 351 0913 390. Siamo qui, ascoltateci, scriveteci e buon ascolto. Allora, Radio Pirata 38, 20 e 27 minuti di questo lunedì 12 luglio 2021. Come promesso, andiamo a cominciare a trattare il tema del ventennale rispetto a quello che succederà a Genova dal 19 di luglio 2021, e abbiamo scelto di mandare un'intervista di Zero Calcare, perché l'abbiamo ascoltata, sono 4 minuti di intervista all'incirca, e quindi G8 Genova, Zero Calcare: dopo 20 anni il mio rapporto con le istituzioni è incrinato in modo irreversibile. Allora, abbiamo scelto di farvela ascoltare, dopodiché piccolo blocco musicale e poi ritorneremo a commentare in voce. Buon ascolto. È un grande momento di esposizione dell'Italia, del nostro paese, nel luglio 2001, la riunione del G8 qui a Genova. C'è Silvio Berlusconi, è stato appena rieletto primo ministro, che fa gli onori di casa. Riceve Romano Prodi, che rappresenta l'Europa. Riceve George Bush, appena eletto negli Stati Uniti. Riceve Tony Blair, che rappresenta la Gran Bretagna. Jacques Chirac rappresenta la Francia. Gerhard Schröder rappresenta la Germania. Ancora non c'è Angela Merkel, ma c'è Vladimir Putin, che rappresenta la Russia. È già sul campo, è già presente, è già, diciamo, uno dei leader più influenti dell'Europa, e soprattutto vengono tutti quanti qui a Genova rinchiusi in una specie di bolla che non deve essere contaminata dal movimento No Global, che ha radunato in questa città centinaia di migliaia di persone per discutere come verrà ridistribuita la ricchezza del mondo. Primo giorno è un giorno di festa. Il popolo di Seattle, che comprende una complessità di organizzazioni, di movimenti, di idee, soprattutto che contestano il modo in cui viene governato il pianeta, la redistribuzione della ricchezza, le tematiche ambientaliste, si sparge e si spande per le vie di Genova senza che accada nulla. In fin dei conti sembra che questa 3 giorni debba procedere con un confronto a distanza tra i grandi della terra e i giovani che portano avanti le loro istanze. C'è un corteo dei migranti, c'è il concerto di Manu Chao e tutto sembra essere assolutamente sereno. Nessuno immagina che invece questi 3 giorni poi diventino 3 giorni drammatici. Michele, 20 anni dopo, che cosa ti rimane dell'esperienza G8? Mi rimane, vabbè, tanto essendo stato uno spartiacque, mi rimane sicuramente tutto un rapporto in generale con l'autorità, con le istituzioni, con qualcosa che si è incrinato in maniera abbastanza irreversibile. e poi mi rimane tutti gli strascichi che ancora ci stanno, anche in termini giudiziari, legali, di persone che ancora comunque stanno pagando, e quelle sono cose che comunque fanno sì che è una ferita che in qualche modo non si richiude. E allora, qui adesso che continuiamo con questa intervista di Zero Calcare, che vi invitiamo veramente a seguire, perché adesso comincerà la parte un attimino più interessante. Vediamo un attimo se riusciamo a farla continuare, perché la stiamo mandando qui in diretta. E comunque la potete trovare su Atlantide di La 7, e vediamo un attimo se riusciamo a risolvere questo piccolo problema velocemente mandando una piccola traccia, e poi continuiamo con l'intervista. Allora, eccoci qui, sempre 20 e 37, Radio Pirata 38 351 09 13390. Andiamo a commentare un po' quello di cui abbiamo avuto piccoli problemi tecnici parlare, con l'intervista di Michele, che ma però non fa nulla. Basta anche quello che ha detto all'inizio, con cui i titoli hanno aperto, no? Corretto. Si è incrinato un rapporto con le istituzioni di un giovane diciottenne, diciassettenne italiano. Corretto, allora, però prima di andare a commentare questo, che un po' è quello che penso che abbiamo vissuto tutte e tutti noi che abbiamo partecipato a quelle giornate, giusto così, per diritto di cronaca, andiamo a raccontare quello che è previsto che andrà ad accadere per il G8 di Genova 20 anni dopo, appunto in vista dell'anniversario. Entra nel vivo la preparazione delle iniziative previste a Genova, mentre in tutta Italia si stanno svolgendo iniziative locali di preparazione, le assemblee promosse dalla rete Genova 2021, voi la malattia, noi la cura, si terranno il 19 e il 20 luglio a piazza Matteotti, che è la piazza dell'ingresso di Palazzo Ducale. Sarà attrezzata con una tenso struttura e un mega schermo. Vi diciamo che non è necessaria nessuna prenotazione per partecipare. Ci saranno delle assemblee, una nazionale che comincerà alle 14.30 per terminare intorno alle 21 del 19 luglio, e poi invece ci sarà un'assemblea internazionale che comincerà alle 9.30 e andrà si immagina a terminare le 13.30 del 20 luglio, e poi tutte a Piazza Limonda dalle 15 del 20 luglio per la manifestazione promossa dal comitato Piazza Carlo Giugnani. E niente, insomma, ci saranno queste assemblee. Ora andiamo a dire un attimino allora la nostra. Allora, facciamo un pochino il punto per se vogliamo aggiungere gli appuntamenti. Commenterei da una notizia che leggevamo prima. Adesso aspettate, vediamo se la ritrovo, se non vado a memoria, dove si diceva che non me la ricordo, però cioè non la ritrovo, però me la ricordo, ci sarà la commemorazione alla Diaz, dove parteciperà anche Don Ciotti nell'alveo di queste manifestazioni che abbiamo appena detto, istituzionali e ufficiali, in cui si commemoreranno i momenti salienti, tra cui anche il massacro da parte delle forze dell'ordine sui manifestanti per vendicarsi sostanzialmente del G8. E a questa commemorazione parteciperanno anche Don Ciotti, che per carità nulla da dire contro la sua lotta contro le mafie, di un sincero democratico cattolico con cui penso condivida solo questo, ma non credo che condivida neanche il metodo per risolvere il problema della criminalità organizzata. Ma parteciperà anche il capo del sindacato SIULP della polizia. Ah, ma guarda, allora io vorrei iniziare a commentare queste commemorazioni ufficiali che avverranno a Genova a partire da questa notizia, cioè dal fatto che pare sia una specie di pacificazione nazionale della memoria, come la giornata della memoria, come la memoria delle fosse, delle foibe, queste cose qui della memoria, no? Come se potesse esistere una memoria condivisa. La memoria non può essere mai condivisa, è condivisa la storia. Allora la storia ci dice ben altro. Com'è possibile che il capo del sindacato del SIULP, a cui, cioè, se lo vedevo, se mi dicevano che stava sui ceci a chiedere scusa davanti a tutta la piazza o legata a una gogna di legno, allora sì, forse avrei preferito vedercelo, posto che comunque sono contrario a queste forme di denigrazione della persona, perché non è sicuramente colpa di quel poveraccio quello che è accaduto quella notte alla Diaz o quello che è accaduto in piazza col 16° battaglione dei carabinieri che ha attaccato a buffo il corteo dei disobbedienti mentre dalla centrale il questore gli diceva dove cazzo vanno, dove gli hanno detto i servizi segreti, fratello, mi dispiace, ti sei reso conto di quello che sei. Quindi da questo inizierei il commento a Genova, cioè queste sono le nostre commemorazioni di 20 anni di Genova, è questo che noi pensiamo a 20 anni da Genova, cioè a una memoria condivisa di repacificazione coi carnefici? Perché questo ci stanno dicendo le organizzazioni dall'alto, ovviamente. Fortunatamente c'è anche qualcosa che si muove dal basso. Quindi diciamo che parte della responsabilità per cui la commemorazione del ventennale di Genova si andrà a svolgere in questa maniera è anche parte di tutta quella struttura organizzativa che allora... Beh, allora, entrare nell'ambito della discernere di Genova richiederebbe una puntata solo per questo, e forse ci potremmo ripromettere di farlo volendo e ripercorrere i dati salienti di quelle giornate che qui tutti noi ci ricordiamo e che forse sarebbe anche giusto restituire alla collettività per capire quali sono stati i veri cioè tutti i veri passaggi politici e non di quelle giornate che sono state comunque giornate concitate e molto difficili, quindi non è che la colpa è del movimento in sé. Ovviamente ognuno ha le sue responsabilità. Il fattore intanto è vedere, cioè io distinguerei il fatto che le commemorazioni ufficiali, dove all'interno però troviamo, ricordiamolo, anche il comitato per Piazza Giuliani, cioè il ricordo dove ci stanno i genitori, che con cui in questi 20 anni tutti i nostri posti sullo stivale hanno collaborato, quindi non è che ci, però il problema è il clima di riappacificamento nazionale che noi abbiamo visto già in atto da anni, da Panza in poi sulla Resistenza, ma che è in atto nel paese e che oggi a 20 anni da Genova purtroppo si riflette anche sui fatti di Genova, cioè il potere, il capitale, i mass media, chiamatelo il governo, chiamatelo come vi pare, sta affrontando il problema in questo modo, con un clima di riappacificazione nazionale, cioè scordammo, volemo se bene, scordammo suo passato, chi ha avuto, avuto, avuto, chi ha dato, dato, dato. Questo è il clima per cui invitano il sindacato di polizia, che farà delle parole di circostanza cercando di fare la stessa retorica di Santa Maria Capua Vetere, cioè far credere che quelle siano poche mele marce che hanno avuto diciamo così quel comportamento, quando quella è stata una macelleria messicana sistemica. Però dico, riappacificazione nazionale in questo senso, anche se poi dopo appunto 20 anni ci sono ancora persone che magari hanno subito condanne a 10 anni più di carcere solo per aver rotto una vetrina, persone che si trovano magari tuttora all'estero per evitare di entrare, questo ci dovrebbe in far carcere per una condanna che realmente no. Poi vai a vedere persone accusate di omicidio che si fanno molti meno anni di carcere piuttosto di quello che è la gravità, no, di togliere la vita di una persona piuttosto che di una vetrina, quindi no, ha molta più importanza una vetrina, il profitto di un bene privato piuttosto che i diritti della vita di una persona. Però volevo anche aggiungere un'altra cosa, cioè nel senso, i carnefici sono stati promossi e adesso sono invitati a festeggiare il ventennale di Genova. Corretto, e quindi questo è il problema, i carnefici sono invitati a festeggiare con noi il ventennale di Genova. C'è un problema, compagni e compagne, c'è un grande problema. Però c'è, volevo problema, anche riprendere una piccola parte anche dell'intervista a Zero Calcare, in cui gli dicono come è vissuto la parte di Genova fino a quando si è arrivato poi alla notizia della morte di Carlo Giuliani e come poi è proseguita, cioè nel senso, andare in crescendo. Io come magari tante e tante di noi che ci siamo trovati lì, magari anche per spiegare qual è il valore dell'esperienza collettiva che quella miriade di più di 300.000 persone aveva condiviso insieme nelle strade di Genova in quell'episodio, no? Si sente ancora comunque legata e toccata anche poi dalle torture, allora, sia di Piazza che della Diaz e non solo, che sono avvenute durante quei giorni. Allora, non abbiamo potuto sentire tutta l'intervista di Zero Calcare, però abbiamo sentito sicuramente una parte importante che è la prima, quindi poi invitiamo tutte e tutti andartela a sentire se non hanno avuto il modo. Genova ha rappresentato per una generazione giovane e anche non giovane, ma non vecchia ovviamente, dell'Italia un momento di, e non solo dell'Italia, un momento di rottura con l'istituzione, cioè quello che tu reputi fino a quel momento, che hai 16, 17, 18 anni, sei andato a scuola, comunque sei cresciuto in Italia e quindi per te lo Stato è quello che è la tua casa, un momento di rottura, cioè di non rappresentazione. Allora, questo fattore è sicuramente vero ed è stata la forza poi che dopo Genova ha creato i movimenti e ha dato forza al moltiplicarsi di esperienze sui territori, miriade di occupazioni, tre movimenti nazionali studenteschi, movimenti dei lavoratori, movimenti dei braccianti, e di roba ce n'è stata. Il problema secondo me è un altro: se noi approcciamo con questa cosa sembriamo dei nostalgici, cioè per noi che a Genova ci siamo stati è stata una rottura e ci ha dato forza nel capire che effettivamente questo non era l'unico mondo possibile. Oggi a 20 anni da Genova noi ci dobbiamo domandare come mai siamo a questo punto e cosa significa oggi noi il ventennale di Genova. Ora, io non conosco una, dato che non c'ho la risposta mia, e sicuramente il mio modo di vedere Genova non è l'unico possibile. Innanzitutto possiamo cominciare a dire da cosa ci fa cagare. Sicuramente possiamo dire che questo tipo di commemorazioni, questo tipo di riappacificazione nazionale ci fa schifo, e noi lo combatteremo fino a che respireremo. Cioè, no, questo non è stato Genova. Cioè, assolutamente no, quello che abbiamo vissuto è ben altro. E niente, insomma, per chi volesse andare, magari anche per le generazioni più giovani, infatti, che non hanno vissuto quei momenti, anche magari. Infatti, comunque, c'è una Genova dal basso a sinistra che si sta mobilitando, come quelli del CSOA Burid e non solo, in cui comunque faranno delle iniziative, comunque cercheranno di raccontare Genova per quello anche che è stato da chi, dalla parte di chi lottava. E quindi invitiamo a chi sale a Genova, chi vuole informarsi sulle pagine del Burid, del LSOA Burida di Genova, a informarsi per, anche per questione di tempo, ma ci ripromettiamo di tornare con un'analisi un po' più approfondita su quello che è stato Genova, magari una cosa anche narrativa fatta dal punto di vista di chi c'è stato, di chi ha lottato e di chi l'ha vista dal punto anche di vista del militante, e che quindi a 20 anni da Genova non ha solo la parte importante emotiva che Michele giustamente ha dovuto dire nella sua intervista, perché era giustamente l'unica cosa che poteva dire. Noi possiamo dire un po' di più, siamo più liberi a partire anche da quell'emotività, però io mi sento di dire questo ai compagni e le compagne che ci ascoltano: forse è il momento di cominciare a considerare Genova come un momento importante di sconfitta da cui dover ripartire. Ok, allora 20:49, chiacchierata interessantissima, Radio Pirata 38. Se volete dirci la vostra, ci iscrivete al 351 09 13 390. E allora vi mandiamo Trio 3 di Public Energy, che ci piace veramente una cifra. Dagli regà. We'll be right back. eccoci qui dopo sta sgabberata che sta ci piace una cifra, regà. Dai, regabbere, grazie maestro. Dopo forse la rimettiamo da capo perché potete sentire tutta. Sempre Radio Pirata 38, 20:55, ci accingiamo alla fine. Oggi abbiamo iniziato con un pochino di ritardo, ahimè, siamo persone anche noi. Allora, avevamo detto che avremmo fatto concluso i temi di quest'oggi parlando della gira zapatista, gli aggiornamenti. Facciamo un piccolissimo assunto di dove ci eravamo lasciati, allora, se noi ce lo ricordiamo. Allora, siamo in attesa. Allora, il sabato scorso è arrivata la delegazione marittima a Parigi, c'è stato il comitato di benvenuta e siamo in attesa dello sbarco del Z-Day, della delegazione aerea degli scarafaggi volanti. Che si lancerà col paracadute, esatto, dall'aereo, come dicono loro, i loro comunicati. Il cui motto è sostanzialmente... volanti, aspetta, no, vabbè, non, in latino non lo so, mi ricordo la traduzione italiana. Lo puoi dire anche in italiano, non volare, serve latino, volare non è altro che è un altro modo per camminare, sostanzialmente. Volare è un altro modo per camminare, questo è il motto della delegazione aerea zapatista. Beh, queste metafore che magnifiche. Sta per arrivare, come abbiamo detto, quindi adesso siamo in attesa. E nel frattempo però, come abbiamo detto pure la scorsa volta, dato che ormai un po' di date le sappiamo, un po' di periodi li sappiamo, quindi entro un mese avremo modo di stabilire le agende, incontrarci con la delegazione aerea, discutere, i compagni e le compagne di tutta Europa si stanno già organizzando per andare a Parigi, e ci sono una serie di passaggi democratici, giustamente, perché prima che i delegati vadano a Parigi a discutere le cose bisogna discutere le cose. Questo è il problema, quindi è per questo che ci andiamo tra un mese, così abbiamo modo di discuterne adesso, se no che cazzo ci andiamo che gli vanno a dire la loro idea personale, e allora che stiamo a fare noi qui, cioè, oltre che intrattenere, giusto, gli ascoltatori e gli ascoltatrici a cui ci piace, che per carità, a dire cazzate ci saremmo qui tutto il giorno. Quindi appuntamenti. Quindi si è tenuta l'assemblea romana mercoledì scorso, che ha avuto come tema organizzare la tappa di Roma, che forse sarà la tappa finale della venuta in Italia, dove saranno 4-5 giorni. I temi sostanzialmente sono quelli un po' che abbiamo discusso le altre volte, sono 4. Sono questo comparte coscientias, cioè quindi questo incontro con le arti e con le scienze, che abbiamo raccolto, stiamo raccogliendo una serie di adesioni da parte di ricercatrici, artiste, gente che lavora nei vari campi della ricerca, del mondo della scienza e dell'arte, quindi appunto dai cantanti, gli attori, fino alle maestranze delle luci e dell'elettricità. L'assemblea, poi ci sarà un incontro con la comunità curda, okay, che avremo l'onore e l'onere di organizzare a Roma con i compagni, un incontro separato con le compagne e poi un incontro nei territori. Questi saranno i temi in discussione da qui a un mese, che dobbiamo capire se per Roma ci stanno bene, ne vogliamo altri, non ci stanno bene. Ok, e a parte Roma invece ci sono già degli appuntamenti pubblici che appunto... pubblici no, però possiamo spoilerare alcune cose. Sappiamo che per esempio la macroarea Emilia Toscana avrà un momento centrale per quanto riguarda le politiche alimentari, la terra, il lavoro contadino, a Mondeggi intorno alla metà di settembre, in cui ha organizzato una marcia da Firenze a Mondeggi, quindi quello sarà un altro appuntamento come quelli che ho elencato che faremo a Roma. E poi ci sarà Genova, ovviamente, che sarà una cosa un po' diversa, perché se i compagni e le compagne riusciranno, porteranno la delegazione marittima. Questa cosa forse non la dovevo dire, ma ormai l'ho detta, quindi se riusciranno, se non riusciranno, è, ci non riusciranno, ci nulla. Riusciranno sicuramente, e noi potremmo però, come avevo detto, come avevo anticipato la settimana scorsa, questa è una settimana e le prossime saranno settimane piene di appuntamenti, che potremmo concludere invitando tutte quante il 14 luglio dalle 18:30 a Lucia Siesta per una presentazione di un libro con una cena a seguire, dove si parlerà appunto dell'acquer del vivir zapatista e non solo. Poi il 16 luglio dalle 19 accesso alla strada a Chiestamox, dove ci sarà un aperitivo e una cena sempre a sostegno della Gira Zapatista, con la presentazione di tre opuscoli presentati dai compagni e dalle compagne giovani del CSO alla strada. E il 17 luglio dalle 18 al CSO Ex Mia Viscosa ci sarà l'assemblea, l'incontro pubblico per organizzare il comparto e il Conscientias. Cioè il primo punto che avevo detto prima, che è all'ordine del giorno, che dobbiamo capire se quello è il nostro punto che vogliamo portare all'assemblea nazionale e poi a condivisione con tutto il resto d'Europa. All'Adere, dico solo l'ultima cosa perché sennò sarei veramente, sbaglierei, c'è infine domenica 18 luglio Onda Anomala a Ostia, quindi dalle 4 al tardo tramonto tutta la giornata sarà trasmessa su Radio Risacca dai compagni del litorale, dai compagni e dalle compagne del litorale, che ci accolgono sempre in questi fine settimana dove Roma è invivibile, che pare agosto, a cui teniamo particolarmente. Meno male che ci stanno i compagni e le compagne del litorale che ci ospitano. Invitiamo anche a un sottoscrivere, un caloroso abbraccio, e invitiamo a partecipare a sottoscrivere alle iniziative del bilancione per e contro, anzi, la costruzione non porto, del non porto. Ricordiamolo, la nostra lotta territoriale a Roma è combattere il porto turistico al vecchio faro, raga, è la nostra notav. I compagni e le compagne insieme stanno, alla Monnezza, stanno raccogliendo delle alla firme Monnezza. I compagni e le compagne di Fiumicino non solo stanno raccogliendo delle firme, e questo ci dovrebbe capire che dovremmo essere meno romanocentrici e parlare un po' di più con i compagni dei Castelli, e non solo, che queste cose ne sanno e ne hanno da dire. Quindi se vi doveste trovare in quel di Ostia e Fiumicino potete comunque partecipare a questa comunque raccolta settimana di firme, piena, anche se sarà poco magari rispetto a quello che ulteriormente si potrà fare, però comunque è qualcosa che potete fare per aiutare i compagni e le compagne di Fiumicino. Allora alle 20.01 e non certo, e non solo, alle 20.02, anzi appena scoccate di questo 21, ho detto 20, alle 21.02 di questo del lunedì 12.07.20.21 vi andiamo a salutare e invitiamo tutte e tutte a seguire la prossima trasmissione che avverrà lunedì 19 luglio dalle 18 alle 19. Vi mandiamo un grande abbraccio, buona vita a voi, buona musica e buon ascolto. Fuck you, fuck them! Hey, what again? This is unreal! We'll be right back. E allora, questa traccetta bella gabberina, andiamo a salutare Mimmo da Torino che ci scrive: no TAV contro il carcere e la repressione, saluti in redazione Radio Pirata 38. Dai Mimmo, un abbraccio a te che ci ascolti da Torino e a tutti i compagni e le compagne di Torino, un abbraccio, viva Torino e le compagne e compagni.